questa presunta o vera diciamo esploade del fascismo in Francia sia dovuta comunque a una situazione di crisi e anche a una contingenza politica che diciamo della Francia attualmente. Ne parliamo con un corrispondente, vorremmo dire un inviato, ma in realtà è lì da parecchio, con Valerio, compagno che sta a Parigi e che ci appunto a cui chiederemo con più precisione le notizie, lumi su questa situazione. Ciao Valerio. Ciao, buonasera a tutti e a tutte. Bene, senti, allora per cominciare l'intervista io vorrei subito chiederti di farci un po' il punto della situazione, cioè per gli ascoltatori cerchiamo di ricostruire un attimo che è successo nell'ultimo mese, volendo anche negli ultimi due mesi, e cosa ha portato poi, diciamo, o cosa girava intorno e nel contesto all'uccisione di Clément Méric. Che è successo? Allora, innanzitutto diciamo, partiamo da quello che hai detto te, dal 5, il giorno dell'uccisione di Clément, che è stato ucciso da dei militanti di estrema destra, che non sono proprio dei militanti iscritti, ma comunque frequentano Terza Via e la Jeunesse Nationaliste Révolutionnaire, in seguito diciamo all'uscita da un locale che vendeva abbigliamento nella zona di Salazar. A quanto pare ci sono stati un po' di discrezzi tra questi gruppi e naturalmente prima di alzare le mani sono stati questi militanti di destra che hanno colpito Clément e gli altri compagni con cui insomma lui era andato a Salazar, e neanche una colluttazione, perché i mezzi di informazione francesi hanno anche parlato di colluttazione, ma non è assolutamente vero. Clément ha ricevuto un pugno in faccia con tirapugni e già quello insomma ha provocato parecchi danni a questo compagno, e cadendo tra l'altro ha sbattuto anche la testa su un paletto lì della zona ed è deceduto. La reazione è stata immediata, il giorno dopo ci sono stati un paio di manifestazioni, sono proseguite anche la settimana scorsa e due settimane fa c'è stata una discreta manifestazione, mentre ieri ce n'è stata un'altra, questa molto molto partecipata, diciamo fonti della polizia per quello che contano parlano di 6.000 manifestanti, per chi c'era diciamo che eravamo secondo me forse anche più del doppio, ed è la cosa che fa ben sperare è che eravamo tanti più o meno organizzati, soprattutto la spezzone di testa. Ci sono stati anche un po' di problemi nell'organizzazione della manifestazione, cioè chi non ha preso parte, anche sindacati importanti come la CGT, però insomma diciamo che è positivo, la reazione c'è e il movimento secondo me antifascista francese si riorganizza. Senti, per fare un attimo il quadro, Salazar, per chi non ce l'ha presente, dov'è a Parigi? È una zona abbastanza centrale, no? Quindi questo evento è ancora più grave. E poi queste organizzazioni che hai citato, la GNR, eccetera, da dove vengono? Ci puoi fare un attimo una piccola storia? Allora, la zona di Salazar non è immune, diciamo, a queste persone che la frequentano, perché io pure una sera beccai degli squallidi personaggi che attaccavano i manifesti contro il matrimonio per tutti e tutte, e queste organizzazioni diciamo nascono, la GNR è più recente, risale a 4-5 anni fa, Troisième Voie invece è più vecchia, e diciamo il leader, il creatore di queste formazioni si chiama Serge Ayoub, che è un po' il che era il capo degli skinhead di destra negli anni 80 e anni 90. Troisième Voie è sostanzialmente un po' il servizio d'ordine di questo oscuro personaggio, e si ritrovano in un locale che è nel 15° municipio di Parigi, ed è un locale che naturalmente non ci si può entrare come in tutti i locali, bisogna essere presentati, e là dentro è un po' il luogo di incontro dell'estrema destra, almeno parigina. La cosa interessante dei Jeuner, che il loro motto è ripreso totalmente dal ventennio fascista, quindi credere, obbedire e combattere. Hanno molti richiami anche alla Repubblica Sociale, dal punto di vista economico, ma non sono, il problema vero è che sono dei gruppuscoli, quindi non sono seguiti fortunatamente da tanti e tanti militanti. Però insomma hanno un'ossatura di un certo tipo, perché comunque Serge Aub, quello che nominavi prima, anche detto Bad Skin per il suo usare le mazze in combattimento, le mazze da baseball, quindi già un personaggio, no? Comunque è una persona che va in giro da parecchio tempo, e come dicevi te, sì, sì. Loro hanno sempre avuto un legame a doppio filo col fronte nazionale in qualche modo, no? Sì, assolutamente. È un po' questo. Un po' ti volevo fare due domande anzitutto. La sì. Prima, appunto, no, è la legittimazione di questi gruppi anche da una parte della destra francese, che è stata, diciamo, sdoganata un po' appunto sulla questione dei matrimoni. E poi, e quindi, se comunque c'è un sentimento appunto di approvazione verso questi gruppi da parte della destra, diciamo, più conservatrice e borghese, e dall'altra, no, questa contraddizione tra un'estrema destra stradaiola fortemente violenta e un fronte nazionale che in qualche modo cerca di darsi una presentabilità di fronte a certi strati sociali un po' più... Beh, sì, sicuramente. Allora, per quanto riguarda la legittimazione, sicuramente la stanno conquistando da un certo punto di vista, soprattutto partecipando a queste manifestazioni contro i matrimoni omosessuali. E devo dire che anche parlando con altri compagni che risiedono qui in Francia da più tempo, è un qualcosa, proprio queste manifestazioni, che è difficile da spiegare, perché diciamo storicamente non c'è questa forza, diciamo, dei cattolici, anche molto integralisti, solitamente non sono mai stati così, così forti, così presenti. E naturalmente questi gruppi puscoli di destra trovano la loro legittimazione in queste manifestazioni, anche perché loro scendono in piazza rivendicando una società che è quella, diciamo, cattolica, conservatrice, che è molto pericolosa sotto tutti i punti di vista. Non è un caso che, diciamo, sono un po' il braccio armato di queste manifestazioni, visto quello che hanno creato, tranne forse nelle prime, però poi dopo, dalla terza in poi, ci sono stati sempre bagarre, scontri con la polizia. Il giorno dell'adozione della legge, il 18 maggio, sotto l'Assemblea Nazionale, insomma, c'è stato un bel da fare per le forze dell'ordine. Il giorno stesso il gruppo di Blocchi Identitari addirittura ha occupato un terrazzo della sede del Partito Socialista. Insomma, sono molto agguerriti. Il rapporto col Front National è un qualcosa di particolare, nel senso che il Front National con alcuni, come può essere il gruppo degli Ayoub, hanno sicuramente dei legami. Il gruppo di Ayoub viene utilizzato come il servizio d'ordine alle manifestazioni del Front National. Tutto ciò, intervista qualche giorno fa, Marine Le Pen ha negato categoricamente la propria conoscenza con questo individuo e con il suo gruppo. E la cosa anche molto pericolosa è l'atteggiamento di una parte dell'UMP, cioè diciamo quella destra repubblicana francese gollista. Buona parte, ci sono diciamo un discreto numero di quadri, di eletti che hanno fatto parte del Fronte Nazionale, che hanno militato prima in Ordine Nuovo, e quindi per esempio durante la campagna elettorale dello scorso anno Sarkozy e lo spin doctor, diciamo così, di Sarkozy, Patrick Guisson, è uno di quelli che spinge molto per una radicalizzazione dell'UMP e quindi di andare anche a riprendersi in parte quei voti persi verso il Front National. Ok. Senti, nel frattempo sono purtroppo molto attivi, sembra, questi gruppi o comunque questo diciamo sottobosco fascista in Francia, nel senso che giusto ieri c'è stata un'altra aggressione, no? Abbiamo letto, sì, due ragazzi. Com'è andata? Dov'era? Allora, ieri l'ennesima aggressione ad Agen, sud della Francia, che Agen è una piccola città nell'Aquitania, e questi compagni uscivano da un festival rock libertario e sono stati aggrediti da... Inizialmente erano in tre, poi hanno chiamato i rinforzi e sono stati aggrediti. Pare che facciano parte di Terza Via, e adesso aspettiamo un po' le prime notizie per saperne di più, anche perché... Sembra che il 26 i GNR e anche Troisième Voie dovrebbero essere, c'è una procedura di dissoluzione per questi gruppi, quindi sì, dovrebbero proprio essere messi fuori legge. Non so quanto possa essere, cioè diciamo non la vedo una cosa importante dal punto di vista magari mediatico per tutti i perbenisti vari francesi, ma il problema è che questi comunque continueranno a vivere, a imperversare, sì, sotto un'altra bandiera, però insomma. Sì, esatto, anche perché non è la prima volta che in Francia vengono dissolti questi gruppi, anche a fine anni 60, anni 70, l'OAS e chi per loro furono sciolti, ma in realtà poi vediamo che dietro questi gruppi ci stanno sempre i soliti padri putativi con le loro varie idee razziste, come Dominique Venner, quello che si è suicidato dentro Notre Dame. Mm-hmm. Lui è un esponente dell'estrema destra francese, diciamo un intellettuale un po' di riferimento per alcune frange dell'estrema destra, tra cui anche il Front National. Ok. E diciamo l'atto quello di suicidarsi dentro Notre Dame era indirizzato a dire: io sono contro i matrimoni omosessuali, questa decadenza dei valori, dello spirito che sta invadendo la nostra società va combattuta, quindi fino all'estrema ratio. Lui ha deciso di suicidarsi, insomma non credo che abbia fatto male, però sì, infatti. D'accordo. Senti, ma nel sud è il sud francese quello che registra più attività da questo punto di vista, vero? Lione, la città di Lione? Direi in parte, nel senso che fare una distinzione, nel senso che questi movimenti, questi gruppi d'estrema destra sono comunque forti, per esempio a Nizza, nel sud, sono città localizzati di destra, proprio molto, molto lì, sì, sono abbastanza forti, nella Baglia di Parigi. Ad Agen credo sia dovuto al fatto che c'era questo festival dei compagni, quindi immagino che siano andati espressamente per compiere questa azione. A Lione, secondo me Lione negli ultimi tempi è forse la città più pericolosa da questo punto di vista. Perché però direi per esempio Parigi su questo meno, quindi anche l'uccisione di Clément un po' è strana, erano anni che a Parigi, diciamo, aggressioni ci sono state negli ultimi tempi, ma meno, più verso proprio diciamo di stampo così contro militanti antifascisti, meno, più verso coppie omosessuali, diciamo chi era negli ultimi tempi in seguito alle manifestazioni contro i matrimoni omosessuali. Però tornando al sud, il sud della Francia è comunque un bastione elettorale del Front National. Si pensa che due degli eletti, gli unici due che sono all'Assemblea Nazionale, sono eletti in circoscrizioni del sud, eletti al secondo turno contro dei rappresentanti dell'UMP, quindi anche le forze di sinistra, diciamo, è una partita di centro-sinistra, sì. Quella del Partito Socialista, in quelle zone cominciano ad avere grandi problemi di voti. Nonostante il Partito Socialista francese, appunto, no? Sì, no, il problema vero è il Partito Socialista francese, certo. In questo momento, soprattutto rispetto anche alla crisi. La crisi si accentua in Francia, è meno forte che in Italia, però c'è. Sì, questo... I socialisti, diciamo, in generale applicano le stesse politiche che sono state applicate negli ultimi 4 anni da Sarkozy. E senti, tornando, diciamo, a livello, tornando all'antifascismo più, sì, più militante, diciamo, tu dicevi comunque c'è un aspetto riorganizzativo adesso del movimento antifascista, in particolare a Parigi. Si parlava anche degli anni dei ruggenti anni 80, dell'antifascismo stradaiolo. Adesso c'è un fenomeno di quel tipo? C'è una cosa più in politica? C'è qualcosa di più o meno strutturato che si muove? Allora, diciamo che strutturato ancora no, secondo me. Perché adesso ormai sono 20 giorni dall'omicidio di Clément e... Però si sta ripartendo, ci si sta riorganizzando, ma magari ricreando una sorta di raggruppamento antifa più grande che possa mettere dentro tante compagne all'interno, diciamo, del territorio francese. Ed è secondo me è in evoluzione la cosa. Magari a settembre, ottobre potrebbe esserci, secondo me, qualcosa di più organizzato, però non direi proprio a livello, diciamo, di organizzazioni con assemblee e quant'altro, diciamo un po' più da cani sciolti, tra virgolette. Com'è il modello del resto, però? Sì, secondo me, io credo che sarà un qualcosa di questo tipo, mi auguro. Però secondo me il lavoro interessante da fare è quello sulle periferie. In che secondo senso? Me è lì che può partire veramente un cambio di rotta importante. E comunque perché il Front National nelle periferie è forte. Parliamo della banlieue, insomma, parigina. Già nella banlieue parigina, se prendiamo la prima corona, meno. Già più si va fuori da Parigi, per esempio, più diventano forti. Loro sono molto. Il Front National raccoglie molti voti, per esempio nella zona di Lille, nell'est è quasi drammatica, secondo me, la situazione, e il sud della Francia. Ok. Quindi l'area metropolitana? Soprattutto nei bastioni in cui una volta il Partito Comunista era forte. Per esempio il voto operaio è un voto che va al Front National. D'accordo, infatti di questo ne parleremo poi, del rapporto fra crisi e fascismo, poi del punto finale della nostra intervista. Per cui, solo per precisare, il discorso della banlieue, riprendere la banlieue, significa sostanzialmente dare un indirizzo, una prospettiva politica a delle strati sociali, a dei componenti della banlieue che oggi sono completamente apoliticizzati, insomma, nel senso spoliticizzati quasi, no? dai media e dal tipo di dibattito molto, molto liberale, molto perbenista che c'è in Francia. Sì, assolutamente, sono subito condannati, cioè vivere in banlieue pregiudica a volte magari un riscatto sociale, diciamola così. D'accordo, però dall'altra parte non c'è una risposta di sinistra a questo, cioè quel sentimento di contraddizione, di conflitto, comunque poi l'abbiamo visto nel 2005 esplodere, no? Però per ora come... non per tempo. Ora non, il problema è che non c'è un lavoro politico che si fa in questi posti. Quello che una volta faceva in parte discretamente bene il Partito Comunista, oggi non lo fa più nessuno, anzi a volte si rischia che è proprio il Front National che comincia a prendere piede in questi posti. Poi facendo, diciamo, loro non hanno poi sedi o altri strumenti di questo tipo, quindi è proprio una roba militante magari di alcune persone che vivono in questi luoghi e cominciano a far propaganda, per esempio nei mercati, o fare buchettaggio per le varie abitazioni. Quindi è pure difficile in parte cercare di fermarli, diciamo. Cioè, quindi vuol dire che bisogna fare un lavoro di tipo di coscienza politica su queste persone. D'accordo. Che perché il discorso del Front National è poi quello che fanno tutte le destre razziste in Europa, nel mondo in generale, è l'odio contro il migrante, contro lo straniero. Il problema anche di questi ragazzi, che a volte non si sentono né francesi né magari più vicini alla loro origine, quindi certo, sono un po' persi, sì, come identità stessa. Oppure all'estremo sono nati in Francia, sono cresciuti in Francia, hanno fatto le scuole in Francia, e poi, proprio per fare un esempio che si capisce, vanno allo stadio a vedere Francia-Tunisia, fischiano l'inno francese e tifano la Tunisia o l'Algeria. Dai! Cioè, che lo facciamo pure noi! Però fa capire che sono un po', diciamo, non c'è una bussola che li guida. Certo, certo. Infatti hai sollevato il discorso tifoseria, è interessante, anche perché vediamo che il calcio quest'anno va, diciamo, per la maggiore, non tanto per gli eventi che hanno organizzato, ma per il conflitto sostanzialmente, no? Quindi sia in Turchia sia in Brasile è centrale. Come sono le tifoserie francesi? Sono, perché c'è stata, come in Inghilterra, una sorta di abbattimento sistematico della conflittualità, oppure? Sì, no, quello abbastanza, le leggi. Però c'è stato anche qualche screzio l'ultima volta, leggevamo, allora, di scontri nel corso dell'assegnazione della Coppa al PSG. Le leggi sul calcio sono dure e molto repressive, tra l'altro 2-3 anni fa furono sciolte per esempio le tifoserie storiche del Paris Saint Germain, una, la Tribuna Cop, era quella in cui risiedevano per esempio Ayoub e vari gruppi d'estrema destra, dall'altra parte dello stadio c'era la Tribuna Boulogne, in cui nella maggior parte dei casi c'erano compagni antifascisti e antirazzisti. In altre città di Francia, per esempio la curva del Marsiglia storicamente è una curva antifascista. Quest'anno proprio contro il Paris Saint Germain hanno organizzato una coreografia in cui sui lati venivano esposte delle immagini del Che Guevara. Però per esempio già Lione, Nantes, l'est della Francia, meno a Lille, lì il lavoro che fanno questi gruppi di estrema destra un pochino simile a quello che abbiamo in Italia. Ok, quindi attecchiscono quindi intrismo dentro le curve che, insomma, serve per prendere quella manovalanza per fare il gioco sporco. Ok. E invece, per cambiare, oddio, per rimanere sempre in tema ma da un altro punto di vista, l'abbiamo citato più volte finora, il discorso delle manif pour tous, che si chiamano così ma in realtà sono manifestazioni organizzate contro la legge di equiparazione, cioè di equiparazione del matrimonio omosessuale con il matrimonio diciamo normale, tradizionale, non lo so, tradizionale direi, non normale, considerato tradizionalmente normale e forse in quanto tale più anormale, ma insomma le manifestazioni quindi che da anti legge con il per il matrimonio omosessuale sono diventati poi quasi manifestazioni anti-gay, no? Per certe espressioni. Quindi, come allora, la prima verso di questa domanda è come si sono inseriti i gruppuscoli fascisti in queste manifestazioni, e sappiamo che sono stati molto presenti, ne l'hai anche un po' detto, e soprattutto se è vero che sia stato proprio questo movimento, tra l'altro nato nemmeno troppo a destra, perché se non mi ricordo male, fra gli organizzatori c'era anche una storica femminista francese, insomma, che però poi aveva preso posizioni di un certo tipo. Quindi come, se è vero che questo ambiente, questo milieu poi ha permesso a questi gruppi di prendere intanto visibilità mediatica e poi possibilmente forse anche forza proprio di strada rispetto, no? Pescare in questo bacino cattolico, transista, ortodosso. Beh, sicuramente il fatto di partecipare a queste manifestazioni gli dà quel risalto mediatico che altrimenti non avrebbero. Quindi io le vedrei pure nell'ottica di aumentare la militanza al loro interno, per fare un po' di proselitismo. Questo è successo? Tu hai notizie? Questo non lo so. Questo non ti risulta ai servizi, diciamo. non saprei dirvelo in realtà. Io non, forse sì, a livello più magari di simpatia mediatica, più che vero e proprio militantismo dentro questi gruppi. Comunque è innegabile che gli abbia dato, queste manifestazioni abbiano offerto una copertura incredibile, no? Poi sì, a certe tipi di azioni. Anche perché tutte le azioni che loro hanno fatto durante le manifestazioni poi comunque sono stati poi bene o male coperti all'interno del corteo dagli altri manifestanti, quindi che ne dicano i vari organizzatori che lanciano proclami contro la violenza o altre robe del genere, in realtà questi partecipano, continueranno penso a partecipare a queste manifestazioni e non vengono cacciati dai vari servizi d'ordine di questi per il mariage pour tous. Tra l'altro prima mi sono dimenticato di raccontarvelo, ieri queste persone che manifestano contro il matrimonio per tutti e tutte hanno anche provocato la manifestazione, quindi c'è stato un paio di appartamenti, sono usciti fuori con le bandiere. È perché chiaramente abitano al centro, no? Quindi. Sì, era, tra l'altro era un palazzo proprio vicino al Louvre. Ah, vero? Il problema però è che scherzi con il fuoco, quindi vi dico solo che dei compagni sono riusciti comunque a entrare nella porta del palazzo. Poi qualcuno so che è arrivato su, ma gli hanno solo fatto delle tag sulla porta. Quindi, insomma, c'è stata anche una risposta da questo punto di vista, perché se tu stai al settimo piano e mi sventoli le bandiere col corteo che passa sotto, incidi un po' a... Cioè, una risposta ci vuole, secondo me. Ok. Quindi, diciamo, Tutankhamon al Louvre con i mariage pour tous. Sì, era una cosa intollerabile, secondo me. Veramente intollerabile. Anche perché loro sui primi a essere intolleranti, quindi... E da questo punto di vista, che si prevede sotto il cielo? Nel senso, ci sono altre manifestazioni in programma da parte... degli oppositori alla legge che ormai è stata approvata, comunque ricordiamo. Sì, la legge ormai è approvata, quindi... Hanno anche fatto un primo matrimonio. Sì, e hanno anche lì, sono andati a contestare questi signori a Montpellier. E tu pensi si sgonfierà, quindi, oppure... Ma la cosa secondo me positiva è che adesso c'è l'estate. E durante l'estate, diciamo, c'è sempre questo vuoto politico sia dall'una che dall'altra parte, quindi non credo che continueranno a manifestare. Poi dipende molto, secondo me, dai media, da come fanno il loro mestiere, perché continuare a parlare di questa cosa non ha più senso, la legge è passata, stop. Quindi pure lì anche i giornali, l'esaltazione continua, anche per esempio l'anno scorso il Front National, che addirittura ci fu una prima pagina di Libération che sono usciti dicendo il 30% dei francesi è disponibile a votare il Front National. Uno, era una cosa non vera, che avevano completamente travisato il senso di un sondaggio che fu fatto durante quel periodo, e secondo si dà comunque un'esposizione mediatica che è quella che loro ricercano, e dà anche magari spunto a persone che sono indecise se votare o meno, sempre per la logica del voto utile, anche qui in Francia, magari votare il Front National. Ok. E l'anno scorso non ha mai preso così tanti voti come lo scorso anno il Front National, perché ha preso quasi 6 milioni e mezzo di voti. Quindi, ecco, per rispondere a questa domanda che poi fanno un po' tutti, pongono un po' tutti, le risposte sono un po' diverse. C'è secondo te una, come si dice in francese, una montée, cioè un exploit, come si dice in italiano, citando del... Ah, ma del... perché exploit non è francese. Sì, è francese. Però exploit con la S. Un exploit quindi con la S di questi gruppi fascisti attualmente in Francia, perché... La risposta poi secondo me è legata a un discorso un po' più generale che ora vorrei affrontare con te, che è quello della crisi che tu citavi all'inizio e che magari ora possiamo affrontare in maniera un po' più dettagliata. Ti faccio subito la domanda in modo da darti un po' più spazio. Il problema che noi come OPS anche ci poniamo sulla base dell'esperienza di militanza sul nostro territorio, ma anche leggendo semplicemente poi... insomma le notizie, è quello se come al solito, insomma l'abbiamo già visto nella storia, se in situazioni di crisi la cosa diciamo più semplice non sia questa uscita proprio a destra della crisi stessa, e quindi se il problema del fascismo non vada prima di tutto affrontato sulla base di una questione sociale, di società cioè, e quindi visto come qualcosa che ha legittimità e ragionazione, quanto più le disuguaglianze sociali, la sperequazione nella distribuzione del reddito, le divisioni, le esclusioni addirittura di gruppi o etnie, è forte. Ah, sicuramente questo io direi più il Front National si riesce a inserire bene in questo contesto di crisi economica. Infatti anche su questo gli ultimi giorni i sondaggi che escono danno il Front National addirittura al secondo turno come nel 2002, anche perché la retorica loro è molto semplice, nel senso non entrano mai nello specifico. Esempio, lo scorso anno sulle questioni economiche il Front National fa acqua da tutte le parti. E non ci sono giornalisti che intervistano alla televisione la Le Pen e gli facciano notare queste contraddizioni. Non propongono delle cose che non stanno né in cielo né in terra, sostanzialmente. Quindi io direi che bisogna stare attenti a questo, è più a livello mediatico che a livello di militanza vera e propria, non è come per esempio nel caso di Alba Dorata. Ok, Alba Dorata è proprio quello squadrismo secondo me nazifascista da camicie brune, con le divise, i pestaggi, la retorica guerresca, insomma... Calcolando poi che in Grecia metà della popolazione è essenzialmente migrante. In Francia si può fare, ma fino a un certo punto, un discorso di questo tipo. Quindi non, diciamo, da un lato non mi preoccuperei, dall'altro però bisogna pur vedere che, come dicevo prima, quello che fa l'UMP, perché spostarsi sempre più con il proprio discorso politico verso le tesi che sono quelle del Front National. Per esempio ieri c'è stato il ballottaggio al secondo turno su una legislativa sul rinnovo di un seggio al Parlamento. Ebbene, al secondo turno UMP e Front National. Nel caso in cui fosse andato al Partito Socialista, tra l'altro era detenuto dal Partito Socialista al seggio, nel caso in cui ci fosse andato il Partito Socialista, in quella zona lì, che il seggio apparteneva al ministro che si è dimesso, che faceva, cioè, i conti in Svizzera, sì. L'UMP è capitato più e più volte, anche l'anno scorso, che facesse il ragionamento libertà di voto, mentre magari il Partito Socialista e gli altri partiti in generale chiamano al Rassemblement Républicain, quindi i partiti considerati repubblicani cercano di coalizzarsi contro il Front National e impedirgli di farlo entrare in Parlamento, perché il Front National ormai non fa più un discorso antisistema, è integrato ormai in questo sistema. Quando viene votato da più di 6 milioni di persone, il campanello d'allarme forse doveva suonare un po' prima. E non è scattato però. E non è scattato. Nel 2002 Le Pen arriva al secondo turno, ma ci arriva con 2 milioni in meno di voti rispetto... Era una situazione diversa sicuramente, ma quello che sta facendo Marine Le Pen e oggi il Front National è una strategia che punta magari tra qualche anno a un'alleanza addirittura con l'UMP. Io non la vedo una cosa, soprattutto a livello locale. Il prossimo anno ci sono le municipali in Francia, si vede in molte città importanti, in molte zone della Francia. Lì, secondo me, è un bel banco di prova per vedere a che punto siamo. Quindi, diciamo, a livello elettorale, secondo te cambia, ma non cambia molto per la crisi, in quanto non propone più delle uscite antisistemiche, come per esempio dicevi prima, come Alba Dorada in Grecia, no? Esatto. Quindi per te è una cosa un po' a prescindere, nel senso, magari può fare da sfondo, ma non è la cosa che inciderà su quel tipo di bacino elettorale? Meno, magari secondo me loro si rinforzeranno molto nelle zone in cui sono già forti. E le zone in cui sono già forti sono tutte quelle zone deindustrializzate, per esempio. L'Alsazia e la Lorena sono zone in cui loro sono fortissimi, sono zone dove l'attuale governo non dà risposte sufficientemente forti alla crisi e creano praticamente proprio un'autostrada al Front National, anche perché poi Marine Le Pen è molto più abile di suo papà. Suo papà era uno di quelli che era per l'Algeria francese, combatte in Algeria tra le altre cose, ma non ci dà più. Per esempio l'anno scorso capitava spesso che il signor Le Pen non intervenisse più neanche ai meeting elettorali per non creare dei problemi. E questo ogni volta che interviene comincia a citare vari lui cita spesso Brasillac, che è un poeta francese che aderì al regime di Vichy, per esempio. Tutte queste cose qui lei non ne parla più, lei non li cita, quindi è molto più pulito, diciamo, come faccia e anche come idee. Sostanzialmente un elettore di destra potrebbe dire: beh, ho votato per gli ultimi 10 anni per l'UMP, cosa hanno fatto? Non hanno fatto nulla. Il Front Nazionale alla fine ti dice quelle 3-4 parole che un elettore di destra abbastanza conservatore può piacciono alla fine, affascina da un certo punto di vista. Forse allora il problema sta più a sinistra, no? Nel senso che, oddio, a sinistra poi è tutto un dire. Parolone. È tutto dire. Comunque il famoso Rassemblement Républicain o Democratico, quello che è. E poi alla fine il Rassemblement Liberista. Non è questo forse quello che poi dà una legittimità così ampia, cioè un bacino, ma non elettorale, ma anche culturale, così forte al Front National, che distingue quindi poi alla fine un po' anche la Francia da altri paesi del Mediterraneo in qualche modo, no? Sì, che sia qualcosa. Esempio, nel 2005 i francesi hanno votato contro la Costituzione Europea. Sì, su posizione di sinistra. Il grosso del movimento che era contro la Costituzione Europea era comunque guidato dalla sinistra, ma non dentro quei comitati, quei movimenti, però anche il Front National era contro, quindi dall'altra parte c'erano tutti. E comunque i francesi votarono contro poi alla fine. Sì, diciamo che nel 2005 la, quando loro parlano di preferenza nazionale, quindi i francesi prima di tutti, il resto forse dopo, ma magari andate a tornare tutti a casa, perché quello poi sostanzialmente è un po' il discorso della Lega in Italia, quello del Front National. È comunque un discorso che attecchisce, soprattutto in, meno nelle grandi città, più nel, nella provincia, nelle campagne. Se, se voi andate a prendere i piccoli villaggi del sud o anche fuori Parigi, della nella seconda corona, e vedete i voti raccolti al Front National, fa paura, che raccolgono un sacco di voti nelle zone rurali, per esempio, dove una volta era forte il Partito Comunista, adesso c'è il Front National che si è impiantato. Ok, va bene Valerio, ci hai fatto un quadro veramente esaustivo, come si direbbe a scuola, e quindi noi ti ringraziamo. Spero di aver ottenuto davvero la sufficienza. Sì, sì, sì, sufficienza militante, diciamo. E quindi Sei politico, assolutamente politico. Noi ti ringraziamo e speriamo di risentirti presto per notizie magari anche più, più belle. E comunque grazie mille, buona vita Francia, auguri per il Front National e ci sentiamo presto. Grazie, ciao. Grazie, ciao. Le seul et l'unique, anarcho-branleur, plein de rancœur quand ça pue le fric, mépris dans les veines, hautain et mutique. Tu veux ma haine, check ma putain de musique. Mon esprit est ailleurs, mes doigts sont rongés, stigmate d'un malheur auquel j'ai déjà songé. Tu peux venir me sonder pour tes élections, je te donnerai les noms de ceux qu'on aimerait plomber. Continuons à lutter concrètement, la pression augmente dans ma prose comme les doses des traitements. Il y a la mascarade, il y a la vérité, il y a ceux qui s'évadent sous toutes les modalités. Action, réaction, tout est causalité. E con questa lunga esaustiva intervista sulle ripercussioni della crisi nella vita politica dei francesi e delle francesi, con tutto il suo strascico di fascistame vario, noi chiudiamo qui la trasmissione di Ops Connecting Fights, la trasmissione sulle lotte del lavoro ambientale e sulla militanza antifascista che c'è in questo stupendo stivale, ma anche oltre. E vi diamo l'appuntamento per lunedì prossimo, sempre alle 19, sempre su Radio Default. Vi lasciamo i nostri contatti per sentirci: www.radiodefault.it. Per intervenire e fare domande in diretta c'è il nostro account Skype radio.default o il nostro account Facebook Radio Default. Per risentire tutta l'intervista, se ve ne siete persi un po', un pezzo, o magari per sentire le altre trasmissioni delle altre volte, andate sul nostro blog che è occupazioniprecaristudenti.noblogs.org. E quindi ora vi lasciamo ad Acero Moretti, Premier Ligne, insomma, tutta una serie di partecipazioni, qui non si capisce il titolo della traccia, e vi auguriamo buona libertà a tutte e a tutti. Et délire, ta récompense, une carte vitale. L'immigré sort du buisson, agressif, politisé, en colère et à raison, déterminé à changer sa condition. Alors que les à l'unisson, check, check, check, check ma putain de musique. Alors t'as quoi,